La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua presenti come sempre ogni sabato a quest'ora per raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi in una settimana che mette in sala uno dei film più attesi di questa estate 2017, perché in estate siamo anche ufficialmente, quindi cinematograficamente ci si aspetta chiaramente, come è successo negli ultimi anni, qualche blockbuster qua e là e purtroppo poco altro, almeno in termini di presenze che sono molto calate nelle sale. La stanno facendo ancora da padroni i film sostanzialmente che hanno dominato le ultime settimane, i Pirati dei Caraibi, La Mummia, è salito abbastanza Nerve negli ultimi giorni, ma insomma in maniera non particolarmente significativa. Ciò non significa che invece non ci siano bei film da vedere e cercheremo di scovarne qualcuno anche questa settimana. Parleremo anche di un festival, Ischia Film Festival, che sta per cominciare. Giocheremo insieme, vi regaleremo come sempre DVD, insomma c'è di che divertirsi nella prossima ora, cominciando proprio da questo film che preannunciavo, da questo film di grande impatto in termini popolari, perché segue una saga cominciata già da qualche anno. Siamo arrivati al quinto capitolo della serie Transformers. Lo teniamo nascosto da mille anni per proteggere la Terra da ciò che era destinato ad arrivare. Perdonami. Tanto per entrare un po' nel clima di questo Transformers 5, L'Ultimo Cavaliere, film di produzione molto molto ricca, con la firma di Michael Bay alla regia e con un cast che annovera tra gli altri Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Stanley Tucci, John Turturro, magari in ruoli più defilati, però insomma un film che non lesina nel mettere facce conosciute davanti allo spettatore per raccontare una storia che comincia tanti tanti anni fa, ben 600 anni fa, con i cavalieri della Tavola Rotonda, con Artù, con qualcosa di mistico nella battaglia che gli inglesi stanno per perdere, sono sul punto di capitolare, quando un'ancora di salvezza arriva da qualcosa di ultraterreno, e scopriremo tanti anni dopo, ai tempi nostri, che quel qualcosa sono gli spiriti che animano oggi i Transformers. Boris Sollazzo è il nostro Transformer, lo abbiamo al telefono. Ciao Boris. Ciao Optimus Franco. Cosa ti sei trasformato oggi? In una lambretta, caro Franco. Ecco, sì, che era una Vespa, a dir la verità. C'è un robottino, un mini Transformer che ha appunto la parte anteriore che è il paravento, diciamo, della Vespa, con tanto di marchio in evidenza, il che ci fa pensare anche, al di là del product placement, magari che c'è tanta Italia, insomma, che quello è un marchio che ha veramente bucato il mondo. Ma parliamo di questo film, Boris, che, come dicevo, comincia con molti molti anni indietro, ha un prologo piuttosto lungo e devo dire, secondo me, forse la parte migliore del film, il racconto di come evidentemente i Transformers aiutino, quei Transformers, quelli buoni, diciamo, aiutino l'umanità già da tanti anni, e poi si trasferisce ai giorni nostri, la cosa funziona abbastanza fino a un certo punto, poi a mio modo di vedere diventa un po' fracassone. Cioè è un film che ha, come dire, forse il punto di forza e il punto di debolezza nella ricchezza di effetti speciali molto ben riusciti. Io ho avuto la fortuna di vederlo anche in un cinema, in uno schermo IMAX, quindi anche con una, come dire, una roboanza, se mi passate il termine, notevole. Però ecco, è un film che piano piano, dove piano piano questo ritmo esacerbato forse si mangia un pochino anche il film, e diventa un po' una sorta di collezione di frastuoni, ma era cominciato molto bene. Un libro stampato, onestamente, nel senso che meglio non avresti potuto dirlo. D'altronde Michael Bay ormai ne ha fatto un, almeno nei suoi momenti migliori, ne ha fatto un marchio di fabbrica. Transformers è Bay in tutto e per tutto, è l'autoironia portata al grottesco e al parossismo, è la volontà di citare tutto ciò che gli piace, anche di più, di usare 20 generi diversi, dimenticarsi che una sceneggiatura vorrebbe avere un minimo di conseguenzialità, portare avanti il cinema come se fosse un gioco di alto livello, un gioco continuo, una sfida con se stessi. Se avesse talento, non dico nella sceneggiatura ma nella struttura narrativa, Michael Bay sarebbe probabilmente George Miller, sarebbe un genio. Così è solo uno che sa usare la macchina da presa e gli effetti speciali come nessun altro. Non è poco in un film come Transformers o come in alcuni film minori che io ho amato molto di Michael Bay, come Pain and Gain per esempio. In Transformers sembra tutto fatto apposta perché il bambino Bay giochi e si diverta e alla fine faccia anche divertire chi lo guarda. Hai ragione che a livello cinematografico, anche registico, il prologo è qualcosa di incredibile. Speriamo, facciamo un piccolo spoiler, però insomma tutto ti aspetteresti da Transformers, fuorché di dover andare a cercare le sue radici nel Medioevo. Qui lo si fa e c'è una battaglia pazzesca, ci sono i cavalieri della tavola rotonda. C'è un altro film che tu immagini possa essere straordinario nel caso in cui venisse girato, e invece è solo il prologo di tutt'altro. Ci ritroveremo insomma anche fisicamente a far ereditare questa tradizione a uno come Mark Wahlberg, che non ricordo avesse dei bicipiti grossi quanto dei pistoni di Optimus Prime, ma ce li ha. E a quel punto Michael Bay si perde volutamente, perché ogni scena è un modo per alzare l'asticella, per divertirsi di più. Faccio un piccolo esempio: a un certo punto c'è una scena Codice da Vinci in cui Anthony Hopkins svela sostanzialmente una società segreta, la svela ai due ignari protagonisti, che si scoprono essere insomma due che hanno un'eredità molto importante da raccogliere, e si alza la musica in maniera roboante, in maniera eccessiva, e lo spettatore pensa ok, è Michael Bay, però forse sta anche un po' esagerando, e poi scopri quando si allarga l'inquadratura che la musica è diegetica, perché è il maggiordomo bipolare Transformer anche lui di Anthony Hopkins, che sta suonando un organo, perché probabilmente ogni volta che Hopkins racconta questa storia lui è costretto insomma ad accompagnarla con una musica epica. Ecco, Bay è tutto il contrario di tutto, cioè Bay è fracassone, ma è anche quello che si prende in giro prima che lo faccia lo spettatore nell'essere fracassone. È un gioco, non è un film. Ecco, se uno parte dal presupposto che non sia cinema, si diverte anche. Il problema è che dopo mezz'ora, 40 minuti, ci sono appunto queste intuizioni anche geniali, ma che si perdono in una noia abbastanza sostenuta e abbastanza continuativa. Abbiamo ospiti! Ma che problema è? Sto cadendo a pezzi! Idiota! Tigre, ma tu che vieni? Diavolo! Molto vivace oggi. Brava. Padrone, è un cretino completo. Mi scuso per l'accoglienza, ma vede, lui ancora crede di essere nel 18 o nel 14 del Novecento. È chiaramente una comparsa tardiva di demenza robotica. Sono cose brutte. E quello che è certo è che Transformers è partito col piede giusto al botteghino, sbaragliando la concorrenza, come dicevo, abbastanza agé, perché i film che stavano in alto erano tutti fuori da qualche settimana, e sicuramente lo troveremo ancora lunedì al primo posto in questo weekend. Diamo la linea alla viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade, torniamo, parliamo delle mie donne, è il titolo di un film che vorrei mettere in piazza i fatti miei, e poi anche di Civiltà Perduta, che è l'altro grosso film di questa settimana. Fra poco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea. Cambiamo un po' clima dal film di grande impatto e di cassetta a quello più d'autore, perché arriva nelle sale italiane con un certo ritardo, devo dire, visto che è un film targato 2014 addirittura, però un film di Claude Lelouch che in Italia non era mai uscito. Stiamo parlando di Parliamo delle mie donne, questo è il titolo italiano del film. Ascoltiamo questa clip. Qual è la cosa che preferisci in assoluto, a parte le tue macchine fotografiche? La giusta distanza. L'equilibrio. Come quei tipi che attraversano il Grand Canyon su un filo. E non si rischia di essere eccessivi nella ricerca di quello che dici? Ci sono poche probabilità che un funambolo sia un simulatore. Avete sentito dallo speech appunto che vi abbiamo fatto ascoltare la storia di un fotografo di guerra di fama mondiale, per il quale sostanzialmente la macchina fotografica è la famiglia, è tutto quello di cui si vuol prendere cura, molto molto più che delle sue quattro figlie che hanno i nomi delle stagioni in maniera molto aulica. E una volta trasferitosi da Parigi in un paesino delle Alpi francesi per un periodo di riposo, sente però di essere in un momento nel quale ha bisogno di riconciliarsi con questa famiglia che ha sempre un po' trascurato per il suo mestiere. Allora ecco qua il titolo, parliamo delle mie donne. Boris, la curiosità è perché un Lelouch arrivi 3 anni dopo. La domanda è com'è, se appunto ci consigli di vederlo. Ma che arrivi 3 anni dopo è perché Lelouch forse non è comunque un'attrazione di cassetta, per quanto potrebbe anche piacerci, e forse anche per sua colpa vive un problema di pregiudizi, di stereotipi. Lui a lungo, a mio parere, nella prima parte della sua carriera ha reiterato anche con profitto e con bravura una serie di visioni, una serie di strutture narrative che lo hanno fatto diventare in qualche modo l'esempio di un certo modo di fare di cinema francese, un certo modo tra virgolette, non dico deteriore, che però subiva sicuramente il peso di venire subito dopo una generazione eccezionale e che in qualche modo veniva accusato di parlarsi addosso, di essere appunto troppo francese, no? Si è sempre detto, e molti hanno detto sempre la frase, è un film italiano, allora non ci vado, e tanti hanno anche detto è cinema francese, come per dire un cinema noioso, molto autoreferenziale, che spacca in due sentimenti. In verità Lelouch negli ultimi anni sta secondo me facendo un percorso molto interessante, perché sembra aver preso coscienza di questi stereotipi su cui lui si cullava, e sembra con ogni film cercare regolarmente di smontarli, di farli diventare altro, di mostrare un'altra visione di sé e del suo cinema. Ecco, parliamo delle sue donne. È a metà di questo tipo di racconto e di questo tipo di strada, perché da una parte li espone questi stereotipi, questo modo di rapportarsi, soprattutto nel rapporto uomo-donna, e dall'altra però è un modo originale, con una regia anche diversa a livello visivo e soprattutto narrativo, molto diverso rispetto al passato. Lo si sente già dalla trama che tu hai enunciato prima, è estremamente diversa da qualsiasi commedia o melodramma sentimentale a cui lui ci aveva abituati. Questo ne fa un film interessante, un film che forse fatica a trovare un'identità chiara, enunciabile, che in cui qualcuno possa riconoscersi. È un film più difficile rispetto al passato, e forse sta tutto lì, cioè forse è troppo bello per uscire subito e si sono aspettati 3 anni, e purtroppo insomma l'estate, che non è proprio il momento in cui si va a vedere. Intendiamoci, non è il miglior Lelouch, ma è uno dei più interessanti, questo sì. Ascoltatemi, ho qualcosa da dire. Non vi farò delle domande perché ho paura delle risposte. Non voglio sapere a chi sia venuta l'idea di farmi questa meravigliosa sorpresa, ma voglio che sappiate una cosa. Qui siete a casa vostra. E io oggi sono l'uomo più felice del mondo. E dato che le cose belle sono destinate a finire, devo darvi una brutta notizia. A partire da questo momento, non smetterò di farvi delle foto. Parliamo delle mie donne, Claude Lelouch. Noi invece parliamo del nostro DVD game. Oggi davvero in palio qualcosa di molto molto prezioso che dovete indovinare con grande attenzione. Allora, cominciamo con la prima clip del nostro DVD game. La prima domanda che ci si pone è se sono cannibali. No, non sono cannibali. Il cannibalismo, nel vero senso della parola, implica un'attività tra specie simili. Ma queste creature non si possono considerare esseri umani. Allora, dovete indovinare di che film si tratta. È una saga, io ve lo dico. Quindi adesso abbiamo ascoltato la clip di un film, più tardi ascolteremo quella di un altro film che fa parte di questa sorta di quadrilogia. Quindi, insomma, se avete intanto indovinato questo film, scrivete il titolo di questo film alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro indirizzo privato, mi raccomando, sempre, per poter partecipare. Bisogna poi, fra un po', provare a indovinare anche l'altra traccia che vi faremo ascoltare. Chiaramente il titolo e la risposta esatta ve la daremo prima della fine della trasmissione. Voglio scoprire una città perduta. Ciò che cerchi è infinitamente più grande di quello che la tua mente può arrivare a comprendere. È il tuo destino. Ritorna il film d'avventura con Civiltà Perduta, titolo originale The Lost City of Zed, con un cast che vede insieme Charlie Hunnam nel panni del protagonista, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, regia di James Gray, che racconta la storia vera, peraltro, di un esploratore, Percy Fawcett, che negli anni 20 scomparve nel cuore delle foreste amazzoniche. Aveva provato una prima spedizione per scoprire un'antica civiltà, il famoso e mitico regno di Eldorado. Dopo era tornato in Inghilterra, poco creduto dalla comunità geografico-scientifica storica dell'epoca, aveva organizzato una seconda e nuova missione per cercare di portare a casa quelle prove che avrebbero dovuto convincere tutti. Insomma, è la storia di un'ossessione, dell'ossessione di un esploratore che diventa anche un'eredità che quest'uomo passa a suo figlio, che diventa il motivo di una vita, quello di scoprire una civiltà perduta, appunto, ma forse soprattutto di dare a se stesso un posto nella vita e nel mondo. Boris, un film Civiltà Perduta che ho guardato con simpatia perché, come dicevo, ritorna il grande film d'avventura, un filone che molto spesso negli ultimi anni è stato poi mischiato, paciugato con l'horror, con il thriller, cioè era un pretesto per fare altro, per fare entertainment puro. Qui invece è il film che racconta l'esplorazione, la grande scoperta. Devo dire, un film impeccabile sotto il profilo della narrazione, anche se a mio modo di vedere gli manca un po' di anima, cioè quello che non c'è è uno scarto emotivo, un picco narrativo che tenga lo spettatore un po' più incollato allo schermo. Sono pienamente d'accordo, è un film molto programmatico, un film che dice molto già nella trama e nel racconto di sé che fa all'inizio, quando, presentando il personaggio, di fatto ci fa capire che questo personaggio non ha un posto nella vita e che quindi dovrà partire per trovarlo, a questo problema che, insomma, anche a livello professionale è chiuso, insomma è una persona che deve trovare qualcosa e lo deve andare a cercare. E quello che forse doveva essere qualcosa che noi dovevamo trovare insieme a lui, in qualche modo lui ce lo offre su un piatto d'argento fin da subito e ci offre anche la soluzione. Sembra incredibile che un film di James Gray manchi proprio dell'emozione, della forza. Se aveva un difetto in passato, forse era proprio il caricare di troppa emotività gran parte dei suoi film, se non forse l'ultimo, che era appunto più un film storico che partiva da una famiglia. E a livello estetico non si discute uno come James Gray, non si discute nemmeno a livello di costruzione dei personaggi. Infatti, come al solito, gli attori sono fortunati a poter lavorare con lui, perché hanno in sorte ruoli, parti molto molto interessanti, molto forti, anche capaci di toccare più vene narrative, più possibilità di esprimersi. Però, come dici tu, alla fine James Gray un po' si nasconde dietro il viaggio, un po' si nasconde dietro il desiderio di una civiltà perduta, di una città perduta, dietro questo Indiana Jones che cerca di essere Conrad e non trova poi alla fine la sua identità, quella che noi invece dovremmo trovare insieme a lui in questo viaggio, perché in questo Gray poi non opera una scelta finale, cioè si fa sedurre dal film d'avventura e allo stesso tempo però non rinuncia alla ricerca di una visione d'autore, appunto, molto più conradiana. Il problema è che, a mio parere, non trova né l'una né l'altra, Il film diventa uno strano oggetto a quel punto, perché sicuramente è un film non riuscito, nel senso non completo, non compiuto. Allo stesso tempo è un film con delle immagini straordinarie, con James Gray alla regia, che a mio parere a livello visivo è uno dei cineasti migliori che abbiamo, e con una storia comunque interessante che ti tiene appinto. Quindi sarebbe ingeneroso bocciarlo, sarebbe però forse troppo generoso anche promuoverlo. Questa è la migliore carta geografica della Bolivia in nostro possesso. Gran parte di essa è bianca, in pratica è pressoché ignota. È una terra di primitivi, ma ci sono alberi della gomma ovunque in Amazzonia. Sono alquanto redditizi. È in corso una grossa disputa tra la Bolivia e il Brasile per quanto concerne i loro confini. Il prezzo della gomma è salito a livelli tali da poter generare una guerra. Mi segue? Certo, signore. Anche se non capisco che cosa abbia a che fare con me. E allora, questo era Civiltà Perduta. Adesso lì nella regia, fra poco andiamo in uno dei luoghi più belli del nostro paese, a Ischia, per Ischia Film Festival, per chiacchierare un po' su quella che è l'edizione di quest'anno, di questo festival, e poi giocare ancora insieme con il nostro film misterioso. Fra poco. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme. La Rosa Purpurea si trasferisce in area festival, come fa sempre ogni estate, per raccontarvi quello che si muove in questi luoghi belli, bellissimi, magici d'Italia, dove il cinema diventa protagonista durante l'estate. Oggi siamo a Ischia Film Festival, 15ª edizione, edizione però di grande svolta. È in collegamento con noi il fondatore e direttore Michelangelo Messina. Ciao Michelangelo. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci da Ischia. Non abbiamo però perso neanche il collegamento con Boris Sollazzo, perché la sorpresa di quest'anno, lo dobbiamo dire, è un po' un orgoglio anche nostro che Boris Sollazzo è diventato direttore artistico di Ischia Film Festival. Quindi Boris, vedremo il festival più brutto degli ultimi anni. No, sto scherzando. È molto probabile. Sto scherzando. Non credo. No, beh, però, scherzi a parte, però è un festival che mi ha sempre colpito per una caratteristica, il festival delle location. Cioè è un festival nel quale come dire, si racconta quello che per molti è lo sfondo del cinema. Però molto spesso invece il luogo del cinema è il protagonista anche delle pellicole, Michelangelo. Esatto, noi abbiamo cercato di analizzare questo frammento, diciamo, dell'opera audiovisiva, cioè l'importanza del luogo nel film. Credo che comunque nel nostro immaginario collettivo ognuno di noi si è innamorato di un luogo al cinema e spesso l'ha scelto anche come meta per le sue vacanze. Come dicevi tu giustamente, il luogo spesso ne diventa un protagonista al pari dell'attore principale, e in un mondo dove ci sono sempre più festival e kermesse abbiamo cercato di creare questa nostra identità particolare, che in questi 15 anni devo dire ha avuto il suo successo proprio perché si è caratterizzata molto su questa particolarità, diciamo, dell'opera audiovisiva. Nas, ma voi non capite. Noi due dovremmo parlare, ok? Così sarà tutto più chiaro, solo io e te. Lei ti ha detto dove voleva andare? In spiaggia. Dove in spiaggia? Ok, Nas, ascoltami. Non parlare con anima viva, mai più. Se ti fanno una domanda, una qualsiasi, come stai, bella giornata, vero, rispondi, non lo so. Parla col mio avvocato. E allora, quella che avete sentito è una clip della serie TV The Night Of. C'era, tra l'altro, doppiato ovviamente, John Turturro, protagonista anche dentro Transformers. È una settimana di incroci questa. Perché? Cosa c'entra con Ischia Film Festival? C'entra perché per la prima volta, Michelangelo, verranno mostrate in un festival un'intera stagione di una serie TV. E questo è il caso di The Night Of. Sì, con il co-direttore Boris Solazzo abbiamo fatto questa scelta a partire da quest'anno, insomma, di inserire le fiction televisive anche all'interno del programma del festival, e per l'appunto avremo il piacere di avere The Night Off, nonché proprio in persona John Turturro, che quest'anno riceve l'ICOS Award alla carriera, il premio praticamente che abbiamo consegnato nel corso di questi 15 anni a oltre 4 premi Oscar e illustri personaggi del cinema. Ecco, a proposito di ospiti, una domanda a Boris. Abbiamo detto di John Turturro, ma c'è anche Claudia Cardinale. Claudia Cardinale, che non è solo ospite d'onore, ma è anche il modo per rendere onore a un grande regista come Pasquale Squitieri. Sembra incredibile che chi ha fatto la storia del cinema, anche in maniera ruvida, in maniera difficile, scomoda, poi sia stato ricordato così poco come Pasquale Squitieri. Quella che facciamo noi il 1 maggio, la prima retrospettiva dedicata a Pasquale Squitieri, e siamo molto felici che non solo Claudia Cardinale, ma anche l'ultima moglie, attrice Ottavia Fusco, vengano in qualche modo a riconoscere sia il lavoro che ha fatto il festival per Pasquale Squitieri, perché è stato presidente di edizione nel 2015, da noi ha sostanzialmente detto, proprio davanti a me e Michelangelo, ha svelato quali fossero i suoi desideri, quali fossero le sue volontà per il futuro. Era già piegato nel fisico, ma non nella mente e nelle speranze, e quindi è un piacere avere lei, che è una delle più grandi attrici che noi abbiamo avuto e che ha lavorato con i più grandi registi, ed è un piacere ricordare anche che non c'è più e che ha amato tra l'altro il nostro festival in maniera sincera, genuina, quasi commovente. Michelangelo, un'ultima domanda invece riguarda un convegno che farete sul cineturismo, perché esiste un turismo cinematografico, cioè di gente che va nei luoghi, e questo ha a che fare molto con le location, per rivedere gli scenari appunto dei film più amati. Sì, in realtà lo stesso termine cineturismo è stato coniato da noi nel 2003 in occasione del primo convegno che facemmo, proprio per analizzare i dati molto corposi del turismo cinematografico, ovvero di coloro che a seguito di un'emissione filmica o televisiva si recano in vacanza su quei luoghi, o quantomeno le scelgono per le loro vacanze. Dei dati molto importanti, perché noi abbiamo un osservatorio permanente proprio sugli studi del cineturismo, dove ogni anno, attraverso un convegno nazionale o internazionale con dei massimi esperti sia di marketing territoriale che di cinema, analizziamo questi dati. Dati che oggi, insomma, attestano che 1 su 5 praticamente dei turisti praticamente sceglie la sua meta di vacanza grazie a un film, portando degli introiti complessivi che sono molto alti. Basti pensare che gli ultimi studi americani attestano che c'è circa un budget intorno ai $200 milioni che si muove ogni anno proprio di coloro che vanno alla ricerca dei luoghi del cinema. Un parterre anche quest'anno molto importante all'interno di questo convegno, e speriamo di poter contribuire per la 15ª volta con i nostri dati a confermare che il cinema va tutelato sotto la parte artistica, ma va anche utilizzato tra virgolette come strumento di promozione del territorio, perché resta ed è ancora uno oggi dei mezzi di comunicazione più forti esistenti. E allora, grazie a Michelangelo Messina, grazie anche a Boris Sollazzo, che salutiamo, e buon appuntamento a Ischia dal 24 giugno al 1 luglio al Castello Aragonese per Ischia Film Festival. Alla prossima settimana e buon cinema! E allora, andiamo a giocare ancora insieme, perché dobbiamo darvi la seconda clip del secondo film misterioso, che però fa parte sempre della stessa saga. Ascoltate. Johnny? Hai ancora paura? Basta adesso, piantala. I morti ti prenderanno, Barbara. Smettila, sei un ignorante. Ti prenderanno, Barbara. E c'era poco da scherzare, invece. Questa è la clip del secondo film. Di quale saga fanno parte i titoli dei due film? Il vostro indirizzo alla Rosa Purpure, @radio24.it, per provare a vincere il cofanetto che fra poco sveleremo. Adesso, linea la viabilità. Torniamo insieme fra poco per parlare di estate cinematografica da un altro punto di vista. Cioè, quali sono i film che dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane, quando la calura ci avvolgerà? Ne parleremo con Mimmo Di Noia, presidente della FICE, Federazione dei Cinema d'Essè, fra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, quarta parte, fra poco tutto il cinema da vedere in casa, sveleremo il film misterioso di oggi, risolveremo e annunceremo i vincitori della settimana scorsa. Prima però prendiamoci una pausa per parlare di cinema d'estate, come abbiamo detto, sotto il profilo invece della sala cinematografica, che come sapete è il luogo che alla Rosa Purpurea sta particolarmente a cuore, perché quest'anno c'è anche il tentativo di popolarla un po' di più anche di contenuti di qualità. Prima però vi devo delle scuse perché la settimana scorsa noi siamo andati in onda, e so che non siamo stati gli unici nella carta stampata, nella radio, nella televisione, con una grande promozione, con un endorsement per un film, piccolo film, che si chiama Cornish Kennedy, che abbiamo molto amato sia io sia Boris Sollazzo. Vi abbiamo raccontato che il film era molto bello, eccetera, e il film non è uscito. Abbiamo scoperto all'ultimo momento che la distribuzione lo aveva fatto slittare in avanti di qualche settimana. Uscirà nel mese di luglio. Qualche ascoltatore ci ha scritto: non lo trovo, ne avete parlato bene. Allora questo mi ha fatto anche un po' accendere la lampadina. Parliamo un po' anche di questa questione, cioè il cinema d'autore d'estate nelle sale, come lo si difende, come lo si promuove e soprattutto come lo si vede, perché altrimenti diventa impossibile. Come lo si vede, prova a spiegarcelo Mimmo Di Noia, presidente della FICE, Federazione Italiana Cinema d'Essai, che raggiungiamo al telefono a Barcellona. Ciao Mimmo. Ciao, buongiorno a voi. Ecco, allora, al come si vede, voi state cercando di porre quest'anno, diciamo così, una soluzione, cioè cercare di buttare nelle sale tanto prodotto di qualità nel periodo estivo, per popolare le sale e dire alla gente che insomma il cinema è vivo anche d'estate. L'obiettivo è proprio quello di convincere sempre più i distributori, che notoriamente non fanno uscire il film nel periodo estivo, a mettere in programmazione dei film, che sarebbe assurdo che vengano messi tutti nello stesso periodo, quindi il solito periodo autunno primavera, dove decine di film vengono, si cannibalizzano l'uno con l'altro perché stanno una settimana e via, mentre in questo periodo potrebbero avere anche una maggiore attenzione anche da parte delle sale, perché potrebbero avere anche una programmazione più lunga, che è quella di cui ha bisogno il cinema di qualità per essere conosciuto. Mimmo, facci un po' qualche titolo insomma di quelli che potremmo vedere durante quest'estate. Noi quest'anno abbiamo selezionato 12 film che escono peraltro soprattutto nel periodo di giugno, mentre ancora luglio sarà abbastanza carente di cinema. Però quest'anno a giugno insomma sono usciti Quello che so di lei, Una vita, Sognare e vivere, Un appuntamento per la sposa, Sierra Nevada, Civiltà perduta, che è uscito in questi giorni, Parigi può attendere, di Leonardo Coppola, insomma Cornish Kennedy, che era previsto, comunque uscirà più avanti, ed è un peccato perché era annunciato per questi giorni. Io danzerò, insomma ce ne sono di Habit of Beauty, ci sono film europei, film italiani, chiaramente sono film più piccoli, film che però in questo periodo sicuramente possono trovare da parte del pubblico che non vuol vedere i soliti blockbuster americani, che adesso è uscito Transformer, poi prima c'è stato Pirata dei Caraibi, cioè nel periodo estivo praticamente un amante del cinema che sta in città, che vuole andare al cinema, insomma o vede i vecchi film oppure non potrebbe vedere nient'altro, e questo è il nostro tentativo di cominciare a cambiare questa stranissima abitudine che poi è tutto italiano. Questa tendenza, infatti, che in Europa non c'è assolutamente un fermo biologico di questo tipo. Ecco, Mimmo, ti faccio un'ultima domanda. Quest'anno è stato un anno anche di polemiche per il famoso cinema a 2 euro, i mercoledì a 2 euro, eccetera. Sì. No? Ne abbiamo parlato anche qui alla Rosa Purpurea. Si diceva, insomma, una cosa one shot che ha, a mio modo di vedere, freddato la corsa di alcuni film. Io ricordo sempre l'esempio di La La Land, che è incappato in quella giornata, ha fatto tipo 200.000 spettatori, perché era proprio il periodo di massimo fulgore del film in quella giornata lì, e da quel momento in poi praticamente si è fermato. Allora ci sono state, chiaramente la gente è contenta di spendere poco per andare al cinema, però forse quella cosa lì una volta al mese conta e non conta. Mi chiedo e ti chiedo, ma non sarebbe meglio per esempio decidere che da un certo momento della stagione in poi, diciamo da metà giugno a tutto agosto, si fa il cinema a 4 euro, a 5 euro, non magari a 2, ma neanche a 8, 9, e la gente la si porta al cinema d'estate anche così? Guarda Franco, questo è un discorso che meriterebbe veramente un lungo approfondimento. E lo faremo, prima o poi, Mimmo. No, perché alla fine io credo che questa iniziativa, anche qui, tutta italiana, mentre negli altri paesi europei si fa una festa del cinema, come avevamo iniziato a fare in Italia a ottobre e a primavera, dove nel fine settimana tutti possono andare al cinema a 3 euro, oppure con i biglietti illimitati come fanno in Francia, che uno compra un biglietto e può andare a vedere tutti gli altri film. Da noi questa vicenda dei 2 euro, la cosa più grave è che possa aver dato la sensazione, la convinzione del pubblico che il cinema costa tanto e che si può andare al cinema solamente quando costa 2 euro. È una campagna promozionale fatta in questo modo, martellante, per 9 mesi, andate al cinema il mercoledì che costa 2 euro, alla fine ha portato invece, più che aumentare gli spettatori, che sono aumentati solo il mercoledì, complessivamente in questi 9 mesi purtroppo gli spettatori sono calati fortemente in Italia e sono calate ancora di più anche le entrate per i cinema, che già non se la passano molto bene. E questo è purtroppo secondo me è un modo sbagliato di intendere le riduzioni. Io gestisco delle sale e vi assicuro che si può venire attraverso una tessera, si può venire tutti i giorni, persino la domenica, a 5 euro al cinema a Milano, nelle sale che gestisco io. E così come tante altre sale hanno promozioni tutti i giorni, oltre il mercoledì, che storicamente per esempio il mercoledì a Milano si paga 5 euro, cioè, ma un conto sono le promozioni fatte fatta così per incentivare, per fidelizzare il pubblico. Un conto è una svendita un po' come quella che è avvenuta, e che io credo che alla lunga la stiamo pagando, nel senso che sono venuti al cinema solamente perché costava 2 euro, altrimenti la gente non viene più. Questo non alla fine si tramuta in un boomerang, ecco. più che una promozione diventa una bocciatura. Esatto. Grazie Mimmo, ci sentiamo e torneremo. Speriamo bene. Torneremo su questo argomento. Intanto il cinema d'estate c'è e i film d'autore ci sono, di qualità, e quindi insomma le sale sono aperte, condizionate, e quindi la gente può andarsi a fare 2 belle ore d'aria fresca e di un bel racconto cinematografico. Grazie a Mimmo Di Noia, presidente Fice, ci sentiamo. Ciao. E allora abbiamo parlato anche di questo argomento, un argomento molto importante, centrale proprio nella vita del cinema, quindi affezionatevi a questo tema, perché il cinema vanno difesi dalla gente, prima di tutto andandoci, semplicemente. Come ha detto Mimmo Di Noia, i modi per andarci tutto l'anno a prezzi calmierati ci sono, e ce ne sono tanti, basta informarsi. Allora, torniamo indietro di una settimana, avevamo ascoltato questo film misterioso. Che succede? Ehi, che stai facendo? Sto bene. È pericoloso, sei impazzita? Devono vedermi. Si sta togliendo. Lo può fare? Si trattava di Arrival, questo è il film con cui avevamo giocato. Quello che non vi avevamo ancora detto erano i nomi dei vincitori. Michele Di Marcallo Concasone, provincia di Milano, Martina Di Prato sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray di Arrival, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, arriva in home video uno dei film cardine della stagione cinematografica, ovvero Arrival di Denis Villeneuve. Storia di un primo incontro con gli alieni e di un problema che non molta fantascienza ha sviluppato, ovvero come comunicare con gli alieni. La protagonista è una linguista, il film sa essere profondamente filosofico, ricordando un filone della fantascienza che raccoglie titoli che vanno da 2001 a Contact di Zemeckis. Ma in fondo il film finisce per essere molto più intimo e privato rispetto a quanto queste premesse facciano immaginare. Blu-ray dal video morbido, in totale aderenza alla fotografia del film, audio ad alta immersività che tiene fede a un film che ha vinto l'Oscar per il montaggio sonoro, e poi un comparto extra veramente notevole. 90 minuti con retroscene e genesi dell'opera, focus con il compositore Johan Johansson, dissertazioni anche filosofiche sul montaggio, e poi regista e sceneggiatore che guidano i lettori tra i quesiti di pensiero e scientifici posti dal film. Andiamo a dare un'occhiata invece alle segnalazioni per i palinsesti televisivi della prossima settimana, cominciando da questa domenica 25 giugno alle 21, in prima serata su Rai 3 passa Il Cigno Nero di Darren Aronofsky. Sì, Nina, ballerina di una compagnia di New York, è soggiogata dalle ambizioni della madre e vive assolutamente per la danza. è scelta come prima ballerina per interpretare il Lago dei Cigni e viene indotta dal coreografo a scoprire il proprio lato oscuro, così che possa interpretare il Cigno Nero con la stessa efficacia con cui incarna quello bianco. È un film che sta tra Hitchcock e Certe cose di Powell e Pressburger, in cui Darren Aronofsky continua la sua esplorazione del rapporto tra la carne e la psiche nel mondo violento dello spettacolo, con veramente la sfrontatezza di un cinema che intende dar forma a un labirinto psicologico senza né remore né timore del ridicolo. Natalie Portman, meravigliosa, vinse un sacco di premi per questa interpretazione. Giovedì 29 giugno invece c'è la possibilità, sempre su Rai 3, sempre in prima serata alle 21:20, di rivedere il film precedente di Damien Chazelle, il regista di La La Land, si intitolava Whiplash. Andrew ha 19 anni e vuole diventare il miglior batterista jazz della sua generazione. A istruirlo è un direttore d'orchestra inflessibile che con metodi da caserma lo spinge oltre se stesso. Chazelle veniva da un esordio, ovvero Guy and Madeline on Park Bench, che innestava il musical hollywoodiano all'interno di atmosfere Nouvelle Vague. È stato lo sceneggiatore di un film concerto sul rapporto tra la musica e le ossessioni, che si chiamava Il ricatto, ed è ovviamente l'autore del premio Oscar di La La Land, musical con Jacques Demy e il cinema francese nel cuore, in cui diciamo che tutto il suo progetto si compie. Con questo film, Whiplash, antecedente a La La Land, film girato e montato in 10 settimane con un attore che suona dal vivo e versa vero sangue, fa un film su quanto è possibile andare oltre quanto ci si può spingere al di là per fare arte secondo le proprie ambizioni. E gira quello che alla fine è il suo manifesto, un'opera piena di foga che grida quello in cui crede e grida anche un cinema che vuole essere duro e puro. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, dobbiamo però darvi il film misterioso di oggi, il titolo di questa saga. Si trattava del cofanetto di Zombie, che è uscito nelle videoteche da qualche settimana, un bellissimo cofanetto che vi sveleremo in tutti i suoi particolari la settimana prossima, ma che oggi è stato, diciamo così, l'oggetto del nostro DVD Game. Grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo alle 18 qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.